Crisalide è un festival, perché non si può dire che non lo sia. Rimane il fatto che sin dalle prime edizioni, la prima è del 1994, il Crisalide si presenta come essenzialmente come un luogo, quindi uno spazio-tempo nel quale tentare uno scambio di esperienze tra artisti, tra figure, tra pensatori, tra umani che desideravano in qualche modo trovare in un certo orizzonte delle risposte. Il Crisalide non nasce come una vetrina, anche se nei primi anni c'era forte la tensione a trovare le condizioni perché si potesse mostrare anche una propria opera, un proprio lavoro. Nasce essenzialmente sospinto da questo desiderio di mettere in comunanza delle tensioni. Erano anche tensioni politiche, queste tensioni erano potenti e ti portavano anche a tradire quelle che erano, diciamo, le elementari regole della sopravvivenza, quindi si allontanavano i possibili sponsor, si allontanava l'idea assolutamente che potesse essere inficiata la propria avventura con nubi probabili, con le amministrazioni. Gli spazi che si utilizzavano erano spazi che venivano ricavati dall'attività e non venivano richiesti al politico di turno, all'assessore di turno. Quindi c'era tutto un mondo che diceva di un festival, vogliamo dire, indipendente. È difficile trovare la collocazione di questo termine, perché comunque è sempre inficiato da una serie di compromessi. Rimane il fatto che la maggior parte delle risorse per produrre il festival proveniva e proviene tuttora dall'attività di Mask, che quindi Mask Teatro con il suo lavoro in qualche modo produce risorse che coprono dal 40-60% le necessità del festival. In questo senso qui si può dire che nel panorama italiano Crisalide sia un festival da ritenersi indipendente, tra l'altro uno dei più longevi, perché siamo alla 23ª edizione, e posso dire anche, diciamo, con orgoglio che si è riusciti a mantenere una sorta di riservo, o non dico di segreto, non parlo assolutamente di chiusure, però quantomeno di circoscrivere l'ambito del festival ad una serie di limiti, ad un confine che permettesse anche la sopravvivenza poi delle attività artistiche della compagnia e dell'incontro con altre attività artistiche delle compagnie ospiti. Il festival si è sempre concentrato sulla possibilità di mettere in campo una sensazione che io chiamo primordiale, cioè individuare una serie di concetti che potessero in qualche modo aiutarci a non fare tutto quello che si vuole, ad arginare, non dico la fatalità, ma arginare quello che spesso sconfina nel proprio gusto, nella necessità di risultare brillanti nella confezione, aborrire il packaging, diciamo, del proprio agire per andare verso qualcosa di, non parlo mica di più profondo o di altre, andare verso qualcos'altro che fosse più legato ad una condizione essenziale. Si sono usate parole come rompighiaccio, come luogo crisalide di una possibile rivoluzione baricentrica, però diciamo che a volte addirittura come se si fosse su una zattera capovolta, tutte metafore che stanno a dire di qualcosa che naviga nelle acque del sociale o nell'incontro con altri individui, si trova il proprio senso, ma si cerca di costruire una propria poetica, ecco.